Quando sarai lontana, mi avrai dimenticato ed io ti avrò perduta, lo so, ma tu sola non sarai. Ce ne saranno tanti che ti consoleranno. Io non avrò nessuna perché voglio sempre bene a te. Ti parleranno di amori facili e riusciranno a farti credere che dell'amore si deve ridere, e rideranno di me, riderete di me. Ce ne saranno tanti che ti consoleranno. Io non avrò nessuna perché voglio sempre bene a te. Parleranno di amori facili e riusciranno a farti credere che dell'amore si deve ridere, e rideranno di me, riderete di me. Quando sarai lontana, mi avrai dimenticato. Io non avrò nessuna perché voglio sempre bene a te. Voglio sempre bene a te.